A tempo di sport. Italia cambia uomini e modulo per la gara decisiva dell'Europeo con l'Irlanda di Trappattoni e Tardelli. Si parla ancora naturalmente dell'atteggiamento di Spagna e Croazia, quindi si pensa che possa esserci un accordo per eliminarci, ma se fosse così poi sarebbe così scandaloso. Il nostro numero verde per intervenire 800 24 00 24, Claudio Arrigoni per Radio 24, redazione Giorgio De Luca, in regia Valeria Bernardi. I vostri sms al 349 238 6666, parleremo naturalmente dell'Italia ma non solo. Un grande collegamento molto bello con Alex Zanardi, che ci parlerà della sua nuova vita e del suo sogno paralimpico. Si è appena laureato campione italiano di handbike, quindi se volete fare qualche domanda a Zanardi fra poco sarà con noi. Vi ricordo 800 24 00 24 e poi naturalmente il basket, perché stasera si gioca quella che potrebbe essere la partita decisiva per assegnare lo scudetto fra Milano e Siena. Siamo a gara 5, 3-1 per Siena, ma naturalmente partiamo dall'Europeo che ha già dato qualche sorpresa con il passaggio di Repubblica Ceca e Grecia, fuori Russia e Polonia. Ma naturalmente noi parliamo di Italia con il nuovo modulo per Prandelli, fuori Balotelli. Si passa al 4-3-1-2, anche se sapremo tutto dalle 19 in poi, visto che da quell'ora ci sono le conferenze stampa, prima quella di Trappattoni e dell'Irlanda, poi Prandelli. Allora, ti convince questo nuovo modulo, Gigi Garanzini? Buongiorno Gigi. Eccomi, forse se è caduta la linea con Gigi Garanzini, vediamo di recuperarlo. Sentivamo delle onde dell'acqua, sarà naturalmente indaffarato in qualcosa di più divertente che parlare dell'Italia, ma vi dicevo di questo nuovo modulo 4-3-1-2 con una difesa davanti a Buffon formata da Balzaretti, Chiellini, Barzagli e Abate, davanti Marchisio, Pirlo e De Rossi, Thiago Motta che svaria naturalmente dietro le due punte che sono Di Natale e Cassano, quindi un cambiamento di uomini e un cambiamento di modulo per l'Italia e per Cesare Prandelli. Buongiorno Gigi Garanzini, vediamo se ti abbiamo recuperato. Sì, eccoci. No, eccoci. Il collegamento da parte vostra è perfetto, da parte mia che sembra in treno. Devo pregarti di tenere un po' alto il tono di voce. Avevo confuso il treno con delle, pensavo fossi al mare, con delle onde, ma va bene anche così. Va bene anche così. Dicevo di questo nuovo modulo e di questi tanti cambiamenti. Ti convincono, Gigi? Ho preso paura che questo sia un collegamento infelice. Un po' difficile. Sta andando molto forte e sta facendo molto lungo. No, ma non preoccuparti. Allora non vorrei che rischiassimo una figura tipo i collegamenti Rai, no? di questo periodo. Io se vuoi posso andare un pochino a braccio, un pochino a sorpresso. Assolutamente. Tanto l'argomento è quello. Dicendovi che sono, da un lato sono molto sorpreso da quello che è accaduto ieri sera, ma come tutti credo, perché questo evidentemente è un europeo che si diverte a capovolgere, non dico i verdetti annunciati, ma insomma quelle che sembrano delle tendenze abbastanza chiare, abbastanza nitide. E a questo punto non vorrei che l'effetto si riverberasse anche su domani, insomma, nel senso che invece, in particolare, forse anche la Repubblica Ceca sembra ambiziosa criticarli, esattamente come lo sembra l'Irlanda a prima vista. Poi in realtà le partite bisogna giocarle e giocandole potresti anche andare incontro a qualche sorpresa. Io credo che il rischio sia abbastanza relativo, perché insomma, in fondo quelle due lì giocavano ancora per la qualificazione, l'Irlanda non più, però conoscendo l'orgoglio di questa gente di Francia sarei molto stupito se si mostrassero arrendevoli. E d'altra parte una nazionale come la nostra, che aveva trovato una formula, che aveva trovato un modo di giocare abbastanza prolungato, razionale, e però con il difetto incorporato di un calo fisico, un calo atletico nel finale, ma insomma cambiarla così profondamente come mi sembra sempre creare da fare Prandelli mi sembra tanto, ecco, forse è il modo. Se è il modo di farla durare di più, va bene. Non vorrei però che questo destabilizzasse un pochino i giocatori. Ma forse questo può essere possibile anche perché già cominciano dei tantam in rete in cui si dice ma abbiamo visto Balotelli e non Zoppica, quindi la scelta potrebbe non essere quella dovuta a un infortunio subito ieri da Balotelli al ginocchio in uno scontro con Ogbonna, ma proprio una scelta tecnica e tattica. Poi con il recupero di Barzagli, Prandelli è ritornato a quello che era il modulo che ci ha portato anche all'Europeo. Un'ultima cosa, se ci senti ancora, Gigi, dicevamo dell'atteggiamento di Spagna e Croazia, ma come ci scrivono anche i nostri ascoltatori al 349-238-6666, dice: nessuno scandalo se Spagna e Croazia fanno la furbata, ma potevamo vincere noi e basta. Io il sistema di gioco che adesso era cristallizzato sul 3-5-2 sono abbastanza d'accordo che Prandelli voglia tornare a una cosa naturale, cioè è stato questo modulo è stato varato per far fronte alla squadra più forte del mondo, almeno annunciata come tale, che è la Spagna, e poi visto il buon esito della prima partita è stato confermato contro la Croazia, da bene. Tornare adesso a una normale difesa 4 contro una squadra sulla carta decisamente inferiore mi sembra giusto e razionale. E quello che non so è se la squadra nel suo insieme sia in grado, oltre a questa novità, che comunque è già una novità cospicua rispetto alle due prime uscite, se sia in grado di reggere anche il cambio di 3-4 pedine, perché 3-4 pedine cominciano ad essere un po' tante per i meccanismi, per gli automatismi. È anche vero però che quello che conta domani è la freschezza della, cioè è la convinzione da una parte e la freschezza dall'altra, cioè di essere in grado di correre più di quanto tu non abbia corso nelle tue prime partite, di approfittare del fatto che non si corrono ma sono più grevi, sono più corrono male, insomma, no? Gli irlandesi di energia ne hanno spese tante nelle prime due partite, ma le hanno spese in maniera poco razionale. Chissà che gli abate i balzaretti, ammesso che poi tocchi davvero loro due, effettivamente non riescono a dare un po' di freschezza in più. Il ritorno di De Rossi al centrocampo credo sia un miglioramento cospicuo. Bisogna vedere però se questi due, diciamo quasi debuttanti sulle corsie esterne, riescono a dare il contributo che Prandelli si aspetta da loro. Bene, grazie Gigi, vedremo poi quelle che saranno le scelte di Prandelli fra poco, perché alle 19 sono previste le conferenze stampa dei due tecnici. Noi allora ci fermiamo per il traffico, poi ci sono degli ascoltatori e poi sentiremo proprio dal ritiro della Spagna qual è l'atteggiamento della squadra campione del mondo. A tempo di sport. Allora, sarà accordo fra Spagna e Croazia per eliminarci? E se così fosse, è così scandaloso? Viene da chiederselo naturalmente in un torneo dove quello che è importante è la vittoria finale. Buongiorno a Sergio da Cremona. Pronto? Buongiorno. Ah, buongiorno a lei. Senta, trovo proprio stucchevole che si parli di biscotto e quando il nostro problema è quello di vincere con l'Irlanda, quindi... E, ha ragione. Ripeto, i problemi bisogna che li risolviamo noi, non tener conto di quello che faranno gli altri. Gli altri poi non ci credo assolutamente, anche perché il 2-2 non lo so come si potrebbe fare. Vabbè, c'è un caso precedente, vabbè, capisco, ma io sono convinto che prima dobbiamo vincere e quindi dobbiamo fissare la nostra attenzione sulla partita che dobbiamo fare, ecco, e se non passiamo la colpa è nostra e non è tanto di accordi. Sì, su questo ha ragione, noi dobbiamo vincere assolutamente, potevamo farlo anche in partite precedenti, dobbiamo vincere, però dipendiamo anche da altri. Qualche sorpresa c'è già stata, abbiamo visto nel turno precedente, però lo confermano anche altri ascoltatori che scrivono al 349-238-6666, dice: ma con l'Eire è sicuro che vinciamo, è più probabile un passo falso azzurro che il pari da 4 gol tra Croazia e Spagna. ci scrive Alessio, mentre ci arriva un altro SMS con meglio due feriti di un morto, vale solo per noi. E sì, perché questa frase la disse Buffon proprio in riferimento ad alcuni pareggi che apparivano concordati nello scandalo che non è ancora finito del calcio italiano. Ma andiamo a sentire adesso cosa pensa Buffon dei possibili pareggi concordati. Dipende tutto da noi, perché ho la certezza che se dovessimo vincere l'ultima passeremo il turno, perché in questo caso si affrontano due squadre di valore diverso, nel senso che la Spagna è la favoritissima ed è la più forte di tutte, e nella Spagna ci sono giocatori che hanno un pedigree e hanno un excursus che non gli permetterebbe, secondo me, di essere, tra virgolette, etichettati come antisportivi o far ridere, ecco, l'Europa o il mondo con un 2-2. 800 24 00 24, queste le parole oggi di Buffon dopo quell'infelice frase del meglio due feriti di un morto. Un altro ascoltatore, Joseph da Milano, che ha chiamato all'800 24 00 24. Vi ricordo, fra pochi minuti anche l'appuntamento con Alex Zanardi, per chi volesse porgere qualche domanda, qualche considerazione proprio ad Alex. Buongiorno Joseph. Sì, buongiorno a voi tutti. Ecco, io chiamavo perché... Sì, ha ragione Sergio, l'ascoltatore di prima, che dice dobbiamo sicuramente vincere. La Spagna sicuramente, io sono convinto che si comporterà bene, però io andrei un po' più alla radice del problema, visto e considerato che credo ci sia un problema poi alla fine legato a questa famosa classifica avulsa di differenza reti, perché in caso di vittoria l'Italia prenderebbe, quindi salirebbe a 5 punti, come magari ipoteticamente con un pareggio della Spagna anche per 2-2 con la Croazia si delineerebbe una situazione di classifica con tre squadre appaiate a 5 punti. Io penso che qualcuno, come lo lasciamo fare ai tecnici, però qualcuno dovrebbe incominciare ad accorgersi, visto che non è la prima volta, e trovare un sistema di poter cercare di alienare questa problematica quando ci sono le parità di punti, di non guardare più questa tipologia di metodica che si utilizza adesso, e trovare un modo per rendere più vero e più concreto quello che è il torneo, insomma. Ecco, questo è quello che volevo dire, questa è la mia considerazione, vi ringrazio. Grazie Joseph. Non è facile, sicuramente può apparire anche in qualche caso come ingiusto, secondo me non lo è tanto, quello della differenza reti spinge anche le squadre a segnare. Certo non è facile, noi abbiamo un brutto ricordo della differenza reti perché negli Europei del 2004, e allora proprio era il commissario tecnico Giovanni Trapattoni, che andiamo a incontrare domani con l'Irlanda, e la situazione dell'Italia era identica a quella attuale. Svezia e Danimarca pareggiarono 2-2 e noi ce ne siamo tornati a casa. Quindi effettivamente la differenza reti può essere crudele. Oggi francamente non vedo che vi siano delle alternative. Staremo a vedere anche appunto quello che sarà l'atteggiamento di Spagna e Croazia, e proprio per questo c'è con noi Filippo Maria Ricci, corrispondente a Madrid per la Gazzetta dello Sport, in questi giorni in Polonia al seguito della nazionale spagnola. Buongiorno Filippo. Buon pomeriggio a te. E allora, dalle dichiarazioni sembra che questo tanto temuto pareggio conclamato fra Spagna e Croazia non ci dovrebbe essere. Fanno a gara da una parte e dall'altra a dire: ma come, noi pareggiamo, ma no, ma figuriamoci. E invece potrebbe essere così, Filippo? Ma le dichiarazioni sono abbastanza chiare, insomma non lasciano dubbi, però è chiaro che se poi dopo si dovessero trovare in una situazione comoda per entrambi quando per lo sviluppo della partita, è chiaro che se dovessero arrivare a due pari al minuto 75-80 sicuramente non segnerebbero più, insomma, ecco. E bisogna vedere come va la partita. Io, per me, la Croazia ha delle difficoltà enormi a far due gol alla Spagna. se sarà capace, per noi sarà difficile uscirne, però io penso che se la partita va come deve andare, la Spagna è superiore e dovrebbe vincere, e questo è quello che dicono i giocatori. Poi dopo il calcio, cioè, qua ci sono più variabili secondo me rispetto a quello che è successo 8 anni fa, cioè, non so, la Spagna se perde va fuori, non so, vanno 1-0 sotto, hanno dei rischi, e in tutto questo poi noi dobbiamo vincere. Certo. Io vedo un'euforia generalizzata, e poi 2 anni fa i mondiali arrivavano nella stessa situazione, 1-1 nelle prime due partite, e poi abbiamo perso 3-2 con la Slovacchia. Sì, magari è una situazione diversa, perché poi la Slovacchia poteva passare mentre l'Irlanda non può. Però in generale mi sembra che diamo un po' troppo per scontato. Sì, io l'ho vista qui, l'Irlanda, pessima veramente, poveretto, insomma, tra l'altro mi sembra abbia fatto un miracolo arrivare con questa squadra fin qui, però non si sa mai, ecco, non so, insomma, bisogna vincere questa partita. E così, insomma, è un'aria un po' strana, però sulla carta cioè, la Spagna gioca per vincere, e punto, e poi starà la Croazia a impedirglielo. 800 24 00 24, per chi vuole intervenire, 349 238 6666, invece per i vostri sms. Filippo, io sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che sia molto diverso rispetto a quel 2004, e soprattutto una squadra che è campione del mondo, campione d'Europa, la favorita di questo torneo, che debba subire 2 gol dalla Croazia, sembra francamente difficile. Poi il calcio ci ha insegnato che sorprese ci sono, lo abbiamo visto anche proprio in questi giorni, ma sembra francamente difficile. Io non credo che si possa arrivare, a meno che appunto non ci sia veramente qualcosa sotto, ma si possa arrivare a pochi minuti dalla fine con un 2-2. Però detto questo, andiamo a vedere sul campo come se la giocherà la Spagna. Ci sono delle indicazioni di formazione? L'atteggiamento è offensivo? Sì, assolutamente. La Spagna dovrebbe ripetere la stessa formazione che ha battuto l'Irlanda, quindi col 9 vero, che dovrebbe essere ancora Torres, e niente, giocheranno per fare la partita. E secondo me le parole di Buffon in questo senso sono state abbastanza corrette. Svezia e Danimarca erano due nazionali mediocri. La Spagna è la nazionale campione di tutto, e non è che si mette lì a pensare meglio eliminare l'Italia piuttosto che la Croazia, perché poi dopo, se ce la ritroviamo in finale, è meglio buttarla fuori. No, non fa parte del modo di pensare di questa squadra. Questa è una squadra che se la gioca con tutti e basta, insomma. Quindi non so, io trovo un po' stucchevole questa cosa. In Italia abbiamo insistito secondo me troppo. Prima cosa, va sempre ricordato che l'Italia, da quando abbiamo vinto il mondiale, tra europeo, mondiale e Coppa delle Confederazioni, ha vinto 2 partite su 12. Questo a me sembra un dato tremendo, impressionante, e per cui pensiamo intanto a vincere la nostra partita. Secondo, c'è un modo di affrontare tutta questa faccenda che a me non piace, cioè come se tutti fossero come noi. Da noi si dà un po' per scontato che è chiaro che se ti serve un risultato del genere lo fai, perché è meglio così, butti fuori una squadra importante. No, non è che tutto il mondo ragiona così. Certo, siamo rimasti scottati da Svezia e Danimarca, che erano considerate teoricamente due nazioni da premio Nobel per la sportività, però no, so, poi se succede mi sarò sbagliato, ma io vedendola da qui ho trovato tutta questa insistenza in Italia esagerata, insomma, ecco, non, nemmeno c'è, cioè, poco positiva, mettiamola così. Filippo, si gioca stasera Portogallo-Olanda, Danimarca-Germania. C'è un ascoltatore che ci manda un sms al 349-238-6666, proprio per te. Dice: cosa succede a Cristiano Ronaldo, spompato dalla Liga? Ma no, quello no. Ronaldo, quando gioca col Portogallo, sente delle pressioni che nel Real Madrid non ha. Il Real Madrid si diverte di più, è più leggero, è più è più tranquillo, anche se non dimentichiamoci che i suoi compagni lo chiamano l'ansia, cioè capito? L'ansioso, è uno che tende così a incartarsi un po' in questa situazione perché vuole far tutto lui, vuole risolvere le partite. In Portogallo non ha attorno a sé la stessa qualità che ha Real Madrid, prima cosa, e comunque è un soffre di più, soffre la sua nazione molto più che il Real Madrid o il Manchester United. Vediamo, questa stasera è una delle partite migliori, ne avremo altre, no? Adesso poi c'è Inghilterra, Ucraina, certo. Ieri sera la partita della Polonia. E sono dei piccoli ottavi di finale mascherati più o meno, e sono molto interessanti. Io non lo so, vedo ancora l'Olanda con una chance, perché comunque è sorprendente vedere una squadra così, no, ancora a zero punti dopo due partite, per cui do una qualche chance all'Olanda. Sono due squadre psicologicamente fragili, secondo me, sia Olanda che Portogallo, impaurite, poco sicure di sé, e mi sorprende questa riflessione sull'Olanda, perché l'Olanda è arrivata in finale al mondiale solo 2 anni fa, però evidentemente è una squadra un po' così volatile a livello nervoso. Secondo me stasera hanno ancora delle chance. Va bene, grazie, buon lavoro a Filippo Maria Ricci, inviato della Gazzetta dello Sport in questi giorni al seguito della Nazionale Spagnola, ed è un vero piacere che è qui con noi uno dei grandi sportivi italiani che mira una medaglia d'oro a Londra 2012, non all'Olimpiade ma alla Paralimpiade. Buongiorno Alex Danardi. Buongiorno a tutti. Allora Alex, prima di parlare di quello che stai facendo e naturalmente complimentandomi con te per il titolo italiano che hai conquistato con la tua handbike, tu ci credi al biscotto Spagna-Croazia per eliminare l'Italia dall'Europeo? Ma premetto che in certe situazioni bisognerebbe cercare di non metterci, si può, comunque no, penso di no. Va bene, e allora pochi minuti di pausa, abbiamo il meteo, poi Alex Danardi con noi a raccontarci quella che è la sua nuova avventura con l'handbike verso la Paralimpiade di Londra 2012. A tempo di sport. 800 24 00 24 per chi vuole intervenire in diretta. Claudio Arrigoni per Radio 24 con Giorgio De Luca in redazione e Valeria Bernardi in regia, con noi Alex Zanardi per parlare anche di ciclismo, ma in una maniera un po' diversa. Si è corso il campionato italiano, Alex Zanardi campione italiano di handbike, ma questo è solo uno dei passi verso la Paralimpiade di Londra 2012, vero Alex? Beh, sì, tra l'altro non è certamente il primo, anzi no, il più grande, tutt'altro. Credo di averlo compiuto nel corso della scorsa stagione, quando ho guadagnato i punti che servivano alla mia nazione ad aggiungere un altro chicco in granaio. E tra l'altro mi piace anche ricordare che l'Italia sarà il paese in assoluto nel paraciclismo più rappresentato ai Giochi Paralimpici di Londra, e insomma sembra abbastanza scontato che io sia uno di quelli che cercherà di far in qualche modo valere le ragioni del nostro paese da un punto di vista sportivo, logicamente. Alex, racconta ai nostri ascoltatori, per chi non ha seguito quella che è stata la tua parabola, naturalmente dopo l'incidente, come ti sei avvicinato all'handbike e soprattutto cos'è l'handbike? Sì, perché ancora oggi tante persone mi fermano per strada, mi dicono: ma corri ancora in auto? Io dico: no, guarda, sto facendo tutt'altra cosa. E in realtà inventarsi ciclista a più di 40 anni è una cosa perlomeno abbastanza curiosa. Io ho scoperto questo mezzo che da subito mi ha preso tantissimo, è stato molto facile catalogarlo tra le passioni più care. E in verità Londra, se vuoi, è un obiettivo importantissimo. Attenzione, non voglio assolutamente sminuire il valore di una cosa che anche per una persona che come il sottoscritto, insomma, dallo sport ha avuto tanto, dalla vita in generale ha avuto tantissimo, ecco,

Sicuramente la squadra di Pianigiani partirà alla grande, perché in casa, perché vi è reduce da una sconfitta, quindi conosciamo le reazioni psicologiche e mentali di questi grandi campioni. Milano deve essere così brava da saper resistere a un inizio certamente furibondo e poi sperare di giocarsela. Naturalmente stiamo giocando in un palazzetto dove in Italia le squadre italiane hanno vinto poco, quindi non si può essere non realisti. Immagino. Però la partita ci sarà senz'altro, perché a parte una sola, la gara 2, tutte le altre sono state partite combattute, quindi evidentemente tutto lascia prevedere che possa esserlo anche questo. Grazie a Franco Casalini, lo ritroveremo quando parleremo di basket. E allora chiudiamo qui, naturalmente l'appuntamento è per domani con Tempo di Sport con Gigi Garanzini. Grazie da Claudio Arrigoni, in particolare a Giorgio De Luca e a Valerio Bernardi in regia.